sono così stanco che non potrei sentire e penso solamente a un sole che cadendo trascina la mia mente in questo ritmo lento. Ormai è sotto la luce che mi acceca.